24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Alino, sai cosa? Adesso scrivo una lettera solo per lamentarmi della tua trasmissione. Scrivo Squinzi, scrivo Squinzi. Va bene. No, sei un ciocca piatti. Poi lo scrivo, Squinzi. Sono qua. Per il momento sono ancora qua, il vostro Ciocapiatti di fiducia, come ho detto ieri su Twitter, Ciocapiatti di tutto il mondo, unitevi! E allora, buon lunedì, cari ascoltatori, siamo con Miriam Lucchetti in redazione, c'è oggi Carmelo Lauricella in regia che mi ha detto appena mi ha visto stamattina, tutta la settimana ti tocca stare con me. Vabbè, insomma, ci sono cose peggiori nella vita. Comunque il nostro alpino l'abbiamo rottamato? Che abbiamo fatto con il nostro alpino Peter Bescapè? Ma certo, il nostro alpino è già... Alla dunata. Vabbè, ma no, allora possiamo aprire il nostro Parlamento? Sì, si apra, anche perché... Il caffè volentieri a tutti quanti. È una settimana importante. È una settimana, oserei dire, decisiva. Lo ha detto il Premier Enrico Letta, bisogna... subito cambiare la legge elettorale. Allora da oggi inizieremo il nostro conto su Twitter, sul mio profilo Alino Milan. È iniziata ufficialmente la prima settimana decisiva per la riforma elettorale. Ognuno di noi avrebbe voluto un governo diverso. Faccio subito la prima parentesi, legge elettorale che va cambiata assolutamente, sarà una delle grandi priorità di questa subito, legislatura. Subito, lo ha detto ieri sera da Fabio Fazio, subito da cambiare, immediatamente. Vabbè, e voglio salutare una coppia che oggi si ricompone, Bimbo Alieno, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, finalmente, allora... Ricomponi la coppia? Sì, la coppia. Con chi? Con il nostro grandissimo Alberto Forchielli. Buongiorno, Forchielli. Dove si trova? Salve, buongiorno. Dove sta? Dove sta il presidente? Sono a Pechino. Certo, nella pulita e linda Pechino. Com'è lo smog a Pechino? No, oggi non si vede dall'altra parte della strada. Ah, beh, quindi è tutto abbastanza tranquillo. Insomma, di solito... Te ne racconto una. Mi ha scritto una signora su Facebook dicendo: io sono una ciocca piatti australiana e passo da Pechino, sei mica lì? Aia. Io ho detto sì, sono qui. E allora è venuta ieri sera e è ripartita stamattina. Ah, fantastico, è una ciocca piatti australiana, cioè dall'Australia. Sì, che mi ha conosciuto su... Il Parlamento, poi dopo è venuta su Facebook, e per cui... Avete capito, cari ascoltatori, voi parlate dell'IMU, e noi siamo a navigare tra Pechino e l'Australia! Sì, ha fatto Sydney Pechino, adesso Pechino Malpensa, e sta arrivando in Italia. Ma come si dice ciocapiatti in cinese? C'è un corrispettivo del ciocapiatti in cinese? Moron, plate basher. Plate basher. No, questo non è cinese, cos'è? In cinese non lo so, no, in inglese, no, cinese. Cinese mi ci vuole due giorni di studio. Ah, vabbè. No, vabbè. Ci saranno 5, 6, 7 alternative. Comunque, oggi a Pechino non si vede al di là della strada, di solito non si vede neanche metà stanza nello smog, quindi va abbastanza bene. Allora... Sì, riesco a vedere la televisione. Ecco, oggi si riesce a vedere la televisione, sì. È accesa, non c'è nebbia in casa. Io vorrei subito partire da qui, dalle solite cose. Bimbo Alieno, settimana scorsa abbiamo parlato dell'IMU, stasettimana indovina di cosa parlano oggi i giornali, aprono, no? Il mondo è andato avanti una settimana nel frattempo. In Italia si parla di IMU. L'IMU è di quanto più è invece un'emergenza tagliare le tasse sul lavoro, no? Perché ieri sera Letta è andato a ripetere quello che ci dicevamo noi lunedì mattina scorso. L'IMU, ancora voglio partire dall'IMU, però l'IMU. Ci ricordi, allora, il debito pubblico è 2.000 e rotti miliardi. Quant'è la spesa pubblica più o meno all'anno? 800 miliardi, 900 miliardi, Bimbo Alieno? La spesa pubblica, si avvicina agli 800 miliardi. E noi stiamo ad accapigliarci per 4 miliardi, per bricioline, cioè tutta Italia, tutta la politica parla solo di questo. Per 4, 8 miliardi. Siamo assolutamente tutto monopolizzato da questa voce che tu fai bene a parlare di 4 miliardi, perché l'IMU come concetto generale è molto di più di 4 miliardi, però l'IMU sulla prima casa è, 4 che è quella che è oggetto di un eventuale, anzi adesso di sospensione, poi vedremo, di un'eventuale rimozione, ammonta complessivamente a 4 miliardi, ma non se ne può che nell'ambito del bilancio collettivo statale voglio dire, è una delle tante voci di entrata o di uscita. Chissà. No, ma si parla di questo. Ancora ieri Berlusconi ha detto, anzi Forchielli, lo faccio sentire, Bungasconi. Sì. Ieri a TG4 Berlusconi. Sentiamo, sull'IMU. Adesso arriva. Noi faremo un decreto per sospendere. Questa è Letta. Non è proprio Berlusconi questo. Questa è Letta c'è un po' di impazzimento. Berlusconi, IMU ingiusta. È cosa buona e giusta quella di non far pagare l'IMU a giugno, e cosa ingiusta e assolutamente sbagliata quella di avere pensato e introdotto un'imposta sulla casa come appunto l'IMU. Eccolo perché lì, Forchielli, insomma, è ingiusto, perché è cosa buona e giusta. Togliere. Ma l'ha introdotta lui. Vabbè. Ma no, ma tanto lui ha preso circa 6 punti promettendo di togliere l'IMU alle elezioni, per cui scordiamocelo che se lo dimentichi, perché quello su quella roba lì ha preso un sacco di voti. Quello che è possibile è tutto un cambio cosmetico con l'innalzamento di altre tasse sulla casa, per cui gli si dà faccia a Bungasconi e si dice che si è ridotto l'IMU. Sa, Letta è andato dalla Merkel, non sapeva cosa dire, aveva paura di prendere 2 pavane da uscire dalla stanza, e difatti ha detto no, noi rientreremo nei conti, non c'è problema. Ma lui ci aveva provato, ci aveva pensato di dire ma sforiamo un po' quest'anno, poi dopo è stato sconsigliato perché ed è andato dalla Merkel, ha detto no, noi... Com'è andata a proposito con la Merkel? Golia, no? La Merkel era Golia per Forchielli. No, si è consigliato prima. E dico, glielo dico o glielo dico che sforiamo? E gli ha detto, guarda, se gli dici che sforiamo ti spacca 4 costole. E allora lui è andato dentro e ha detto, no, i conti tutto a posto. Tutto a posto. I fatti interni. E la Merkel non se n'è accorta, ovviamente. Vabbè, la Merkel va bene, sa. Ma ragazzo, adesso vediamo cosa fa, capito? Ovviamente c'è molto... Ha fatto finta di crederci. Sì, ovviamente in Germania non credono a questo governo, c'è questa enorme delusione di Monti di cui si erano infatuati, il ritorno di Berlusconi lo vedono come con il fumo negli occhi. Quindi si tengono ormai letto. Il mondo si è reso conto che l'Italia da sola non può liberarsi di Berlusconi. Come noi nel 1943 non riuscimmo a liberarci di Mussolini. Attenzione. Quale poi fu liberato sul Gran Sasso dai tedeschi senza che i carabinieri sparassero un colpo. Il mondo ormai ha perso ogni speranza che gli italiani si possano liberare di Berlusconi. Il paragone mi ha un po'... Ci stiamo avviando su un declivio interessante. Mi ha fatto venire un brivido. Forchielli, ma continui pure con questo paragone, storico italiano. C'è qualche altro da aggiungere? Qua ci sono già i carabinieri, invece non sparano i colpi, ma sono fuori dalla porta. I carabinieri su Gran Sasso avevano l'ordine di sparare a Mussolini se fossero venuti a prenderlo. Stanno arrivando i carabinieri. No, erano i carabinieri che l'avevano in custodia. Sì, No, ma c'era una sirena sotto, non so se da Mimmo Alieno o da Forchielli stavano arrivando intanto i carabinieri. Era il paragone, Forchielli, ma poi Mussolini, Berlusconi, nella stessa frase, poi dopo uno... Guardi che dal punto di vista del mondo è così, ossia gli italiani non si riescono a liberare di questo strano personaggio che è lì da 20 anni, che pone un rischio sistemico al mondo, perché l'Italia è il terzo mercato di bond al mondo, quindi un'Italia che salta dà molto fastidio a questo processo graduale di lento e faticoso di recupero dell'economia mondiale, capito? Sì, quindi l'ultima cosa che vogliono è avere un Berlusconi tra i coglioni un'altra volta. Eccolo, Bimbo Alieno, alla fine l'editoriale di Forchielli si doveva concludere così. Cioè. No, te lo spiego. La prossima volta ci pensano loro, però. Ci invadono con i Panzer, con la Panzer divisione. No, secondo me, guardi, tolgono tutta la pubblicità delle multinazionali da Publitalia, Mediaset. Ecco così. Lo prendono per i cordoni della borsa. Sì, in questo momento lui è più preoccupato dell'andamento di Mediaset che dei suoi fatti giudiziari. Tanto lì c'è insomma, abbastanza chiaro che non si arriverà a nulla. Il controsenso è che lui è entrato in politica per salvare le aziende. Finisce che magari fa il Presidente della Repubblica disfacendo le aziende, capito, dopo vent'anni. Bimbo Alieno, di qualcosa, intervieni subito, ma di che il mercato invece rassicura sulle aziende di Berlusconi. Rassicura? Insomma, guardando 300 milioni di euro, poi chissà cos'è la perdita vera. Poi vorrei sapere cosa ha nel tuo Milan a bilancio, fra l'altro. Cos'ha? Non ho capito cos'ha? C'è il Milan, ce l'ha da bilancio, voglio vedere che valori ce l'hanno, perché torce di squadra. Ma perché bisogna toccare il Milan? È l'unica cosa che... Perché a bilancio, lasciamolo è consolidato. Ma ha già i suoi problemi il Milan, ma lasciamo... Sì, ho capito, ma nel bilancio, è dentro, voglio sapere a che valori. Non fare il tifoso, tocca a Piatti. Ecco appunto, eccolo lì. Il solito tocca a Piatti, o sei neutrale... Alessandro, ricordagli cosa ha fatto la Lazio ieri, che così almeno si dà una calmata. La Lazio ha vinto. Che il suo Bologna ha preso la pettinata. Non capisco, ma cosa c'entra il Bologna, capito? Quella intanto era una partita di tennis, non era una partita di calcio, ha deciso di giocare a tennis. Quindi in Bologna è tutto bene. Effettivamente ne avete presi sei. Forchielli, su, adesso tira in ballo il Milan anche nei conti. Bimbo Alieno, che fa? Berlusconi fallisce, lo prendono per i cordoni della borsa. Cioè, Forchielli dice che è preoccupatissimo per le sue aziende. Sicuramente è un'esposizione, come dire, un fianco aperto esiste da quel lato lì, perché abbiamo visto anche dei movimenti importanti sul titolo Mediaset a novembre dello scorso anno e diciamo nell'ultimo mese di campagna elettorale prima delle elezioni, quindi diciamo nel mese di febbraio di quest'anno. Ovviamente, come dire, il riflesso sul prezzo dell'azione, quindi poi sul valore del patrimonio di famiglia, dipende molto dal termometro politico. Sì. Allora, intanto, prima di andare al traffico, Forchielli, c'è un'ascoltatrice, Daniela da Viareggio, che ci scrive via SMS: anch'io ho Forchielli su Facebook, andrei in Cina a trovarlo. Da Viareggio, Daniela da Viareggio, tutte da Forchielli. Va benissimo, perché lì subito dice va bene. Dici che mi la richiesta d'amicizia. Vabbè, la richiesta d'amicizia, Daniela, su Facebook a Forchielli, a Daniela da Viareggio, se lo ricordi il nome, così. Va bene. 24 mattino. Dunque, i politici non sanno come togliere l'IMU perché i comuni hanno bisogno di fondi. Perché non riaprono i termini del condono edilizio? Così pioverebbero miliardi di euro ai comuni e allo Stato. Io penso che la strategia di Berlusconi sia molto chiara. Siccome vuole tornare al governo, allora adesso si impunterà sull'IMU, non ne faranno niente, cadrà il governo, si riandrà alle elezioni, vincerà le elezioni e tornerà al governo. E con buona pace di tutti. E così va la vita. Bisogna ritornare assolutamente alla lira, dopo il cambio vergognoso, 1 euro 1936. Grazie a quel bell'imbusto, a quel signore che si chiama Prodi. Ritornare alla lira significa che siamo liberi di svalutare. I nostri guai cominciano dall'euro. Ma dove stanno vivendo queste persone che vogliono assolutamente la cancellazione dell'IMU? Vogliamo, ma l'erbavoglio non esiste neanche nel giardino del re, tantomeno in quello di Berlusconi. Spero che il Berlusca non si mette a fare come Grillo. L'IMU, che già non riusciamo a non pagarla a giugno va già bene, accontentiamoci, già qualcosa che non si impunti sul fatto di restituircela, tanto ormai è andata, chi se ne frega, l'abbiamo pagata e chi se ne frega, ma non si metta a fare anche lui il grillino, perché ne abbiamo pieni i coglioni. Ciao Ale, mi chiamo Vincenzo, ascolta, mi sa tanto che Napolitano sta facendo uguale come ha fatto Lippi, poteva ritirarsi dopo un mondiale vittorioso e portare a casa una carriera formidabile. Lui poteva ritirarsi tranquillamente con la sua bella Clio e invece no, ha voluto ancora viaggiare in Ferrari. Vabbè, dalla Clio alla Ferrari, siamo con Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, e il nostro amico blogger Bimbo Alieno. Oh, tutti di IMU, anche gli ascoltatori, ma non se ne può più, ma non se ne, sembra che in Italia conti solo l'IMU, pagare l'IMU, non pagare l'IMU, restituirli, ma chi se ne frega a un certo punto, scusate. Alessandro, Alessandro, possiamo parlare un secondo a quel signore che diceva che tutto il nostro problema è l'euro e il cambio che a suo tempo introducemmo, perché vorrei ricordare che la polemica qualche anno fa era, se vi ricordate bene, che secondo qualcuno il cambio andava fatto a 1500 lire. Sì. Perché le persone avevano perso troppo in potere d'acquisto al momento del cambio. Cioè che il problema non era il mancato controllo dei prezzi dei commercianti, ma il valore di cambio al momento dell'introduzione dell'euro. Ecco, quelle stesse persone sono quelle che oggi parlano di svalutazione, perché cambio a 1500 lire significa avere la lira rivalutata, cioè più forte contro euro. Invece adesso quelle stesse persone dicono che il cambio era sbagliato perché avremmo dovuto entrare con valori svalutati, quindi con una lira più debole. Sentite che dotto Bimbo Alieno. Cioè non è dotto, questione di avere un minimo di memoria storica. Voi siete lì con il caffè, la fetta biscottata. E noi abbiamo un'economia che va storta, se anche sposti il punto di partenza e vai storto, vai comunque a sbattere. Ma è un po' come la Ilaria, Borletti, Buitoni, vai un po' storto, come direbbe Crozza. Abbiamo bisogno di raddrizzare la nostra economia. Non di spostare forzatamente l'automobile verso destra o verso sinistra, perché la macchina tira da una parte. Ma fate le riforme che ci fanno viaggiare, mica cambiare la marcia, 4-5 marce all'inizio. Bisogna mettere le ruote dritte. Allora, Forchielli, ma si paga l'IMU in Cina? Cos'è l'IMU? No, non c'è. Ed è un grande problema, perché attizza la speculazione immobiliare, per cui vorrebbero metterlo, sta facendo delle prove pilota in alcune città. Lì se mettono l'IMU alto che 4 miliardi sulla prima casa, siete un miliardo di cinesi, cosa prendono su 500 mila miliardi? Sì, ma perché senza IMU tenere case non costa niente, per cui la gente parcheggia i soldi in case, per cui c'è un enorme costruito, quindi l'IMU è... Ma quindi non funziona. No, come l'IMU è una tassa giusta, ossia la property tax cosiddetta, non è che sia sbagliata, adesso poi coincide... No, ma molti la pagano. Che far dipendere le sorti di un governo da un rimborso IMU con il governo che c'ha le pezze al culo, ovviamente... Ma non credo che voglia far saltare il governo, si accontenti di qualche cambio cosmetico. Però Letta gli ha risposto con la legge elettorale, questa è ancora più pesante, perché l'ultima cosa che Bungasconi vuole è cambiare la legge elettorale. Ma la legge elettorale, dai, ma è una barzelletta, speriamo che ce la facciano, ma è da mesi, oggi l'ho iniziata, il conto ufficiale, il conto ufficiale sul mio profilo, è iniziata oggi la prima settimana decisiva per la legge elettorale e anche la prima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Voglio chiudere però con questo. Allora, non era arrivato il discorso di Letta in America, non è arrivato il discorso di Napolitano in Germania, no Forchielli, questo in diretta, ma sarà arrivato sicuramente in Cina quello che ieri ha mandato in onda Rai 1. Lo sa cosa ha mandato in onda Rai 1 ieri pomeriggio? No, come no? Il matrimonio di Valeria Marini. Ah no, ma non è conosciuto. L'unica vera star che noi abbiamo di rilievo in Cina è Bungasconi. L'unico che fa le prime pagine è lui. Con tutti Valeria Marini si è sposata in diretta. Sì, ho visto con le bestemmie, ma l'ho letto sul Corriere, non ne frega un cazzo a nessuno. No. No, è inutile, neanche Valeria Marini, neanche a Valeria Marini interessa. No, rassegnati. Allora, tra l'altro, tra i testimoni, Maria Grazia Cucinotta, Ivana Trump, Anna Tatangelo, Alfonso Signorini, per la sposa, e per lo sposo Gigi D'Alessio, Nicola Gurrado, Bartolomeo Giordano e Fausto Bertinotti. Fausto Bertinotti, Forchielli, Fausto Bertinotti, quello là, testimone dello sposo. È sempre stato un po' fighetto Bertinotti, eh? Quando era presidente della Camera, pigliava l'aereo privato, andava ai ricevimenti a Parigi. È più fighetto di quanto sembra, eh? È fighetto. Una chicolina anche lui. Di la verità, bimbolina. Caccolina. Bimbolina, non ti avevano invitato, di la verità, ieri poi era a Roma. No? Non solo, sono anche riuscito a pubblicare una delle poche foto... perché sai che c'era l'esclusiva, no? Qualcuno ha pubblicato le foto su Twitter e è scattata la polemica. E ce l'avrà avuta Signorini, su chi? C'è l'esclusiva, era testimone della sposa, se non c'era lui l'esclusiva. Vabbè, comunque è scappata anche la bestemmia. E tutto questo perché paghiamo il canone, eh? C'è stata anche una bestemmia davanti alla chiesa, credo, di un bodyguard del matrimonio. Vabbè, vi devo salutare, grazie dal vostro Ciocapiatti. Salutate tutti i Ciocapiatti d'Australia. La prossima volta voglio sapere come si dice in mandarino, Forchielli. Grazie per essere stato con noi. Così come Bimbo Alieno, il giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:24 minuti, siamo arrivati un po' arrancando, ma siamo qui, cari ascoltatori, e siamo pronti a leggere i giornali. Oggi parleremo alle 8:15, ve lo anticipo, di stipendi degli italiani bloccati per il 40% degli italiani è in attesa del rinnovo, i dipendenti pubblici soprattutto sono in grande attesa, come sempre, stipendi bloccati, ma non per tutti. La notizia dei giorni scorsi è che c'è stato uno sblocco per una sentenza della Corte Costituzionale di un adeguamento dello stipendio dei magistrati tra il 4 e il 5%. E poi è arrivato il primo cedolino, ha fatto molto scalpore, per esempio la Regione Lombardia, 16.000 euro netti per i consiglieri regionali, ma in realtà era un mese e mezzo, non un mese, insomma c'è qualcosa da chiarire. Poi ieri c'è stata anche un'inchiesta delle Iene che ha fatto... vedere come i dipendenti di Camera e Senato, alcuni Senato per la verità, timbrano e vanno via, sono tra la casta più pagata in Italia, vi assicuro, hanno 14 mensilità ieri li hanno beccati le Iene. Quindi stipendi bloccati per gli italiani, ma non per tutti, di questo parleremo alle 8:15. Ora andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola. È lunedì 6 maggio, i titoli, il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, fisco riapre il cantiere riscossione, per il Corriere della Sera niente tagli a cultura e ricerca, la promessa di Letta, altrimenti mi dimetto. Repubblica, IMU sospesa, giù le tasse sul lavoro, così il Messaggero, Letta via l'IMU e la legge elettorale. Per il Giornale, stop ai tassatori. Letta, giù le tasse sul lavoro e anche l'apertura della Stampa. Queste alcune delle aperture. L'Unità invece, lo stop di Letta Berlusconi, l'IMU non è cosa tua. Siamo sempre lì. L'IMU, cari italiani, non abbiamo fatto un millimetro in avanti negli scorsi giorni. Voglio però partire da che cosa? Ci sono tanti articoli che trovate sui giornali oggi, perché è scomparsa ieri la vedova di Paolo Borsellino, Agnese Borsellino. E tutti i giornali dedicano pagine sulla vita per tanti anni silenziosa, soprattutto dopo la strage di Via D'Amelio, della vedova di Paolo Borsellino. Addio Agnese Borsellino, l'ultima intervista, le trattative furono due, così ricorda per esempio Felice Cavallaro sul Corriere della Sera.

10.000 euro lordi sarà dimezzata, i parlamentari del Movimento 5 Stelle terranno metà, ma cosa fare di tutto il resto, cioè diaria, spese per collaboratori, attività politica, rimborsi taxi e telefono? La maggioranza dice tenerselo, rendicontare tutto, restituire l'eccedente solo su base volontaria. Per Repubblica è un primo, in qualche modo, tentativo di ribellione, se vogliamo, Beppe Grillo. Comunque di stipendi, anche di stipendi della cosiddetta casta, ne parleremo dalle 8.15. Voglio chiudere con lo sport, la Gazzetta dello Sport. È doveroso, è giusto. Quando una squadra domina tutto l'anno, vince il campionato, è bene essere sportivi e fare i complimenti per la vittoria dello scudetto. E non c'è dubbio, è andata così, ha vinto anche quest'anno la squadra migliore, il campo ha sentenziato, e dunque complimenti, complimenti, complimenti vivissimi per lo scudetto alla Steaua di Bucarest, che ieri ha vinto il campionato in Romania e dopo 7 anni senza successo è tornata alla vittoria. Dunque complimenti, scudetto rumeno alla Steaua di Bucarest, che io ricordo sempre con piacere dopo la famosa finale di Coppa dei Campioni Milan-Steaua 4-0, 2 gol Gullit, 2 gol Van Basten nel 1989. Comunque complimenti, davvero è stata la migliore quest'anno. Steaua di Bucarest, giornale radio. Mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 18 minuti in questo istante. Allora, cari ascoltatori, intanto vi do il numero di telefono per intervenire, 800 24 0024, e vi faccio una domanda: c'è un qualcosa, cari italiani, che vi svegliate la mattina e vedete che non si muove, non si muove, non si muove di un millimetro da tempo, magari da mesi, da anni, sembra più pesante di un pachiderma, di un blocco di granito? È il vostro stipendio, lo stipendio degli italiani, come certifica l'Istat, come certificano tutte le statistiche, è immobile, è fermo da anni, stipendi bloccati, spesso si leggono questi titoli, stipendi che non aumentano da anni. Ieri ancora il premier Enrico Letta ha detto che bisogna diminuire le tasse sul lavoro, è una delle priorità assolutamente, magari un po' di quei soldi potranno andare a rimanere alle imprese per creare posti di lavoro, un po' di quei soldi si spera possano entrare direttamente nelle tasche degli italiani, dei lavoratori in busta paga. Insomma, l'Italia degli stipendi bloccati, oggi vogliamo parlare di questo con le vostre considerazioni, e io dico l'Italia degli stipendi bloccati, ma non per tutti, per carità. Qui bando alla demagogia, al qualunquismo, non vogliamo fare questo tipo di approccio, ma vogliamo parlare con ospiti perché hanno fatto sicuramente notizia, certamente ha fatto anche un po' scalpore vedere per esempio nei giorni scorsi che il primo cedolino arrivato ai consiglieri regionali della Lombardia citava questa cifra pubblicata sui giornali, 16.000 euro più o meno netti. È vero, era lo stipendio di un mese e mezzo e quindi non di un mese. È stato reso noto dagli esponenti del Movimento 5 Stelle. Voglio salutare un consigliere regionale del Movimento per la Lombardia, Dario Violi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Tra poco poi tra l'altro spiegheremo perché c'è appunto un giallo, non è esattamente lo stipendio di un mese, ci sono, però insomma faremo chiarezza su questo. Come sui giornali si è guadagnato molti titoli anche, non si potrebbe dire l'aumento, meglio l'adeguamento, ma di fatto sostanzialmente è un aumento dello stipendio dei magistrati che è avvenuto nei giorni scorsi per il combinato disposto di una sentenza della Corte Costituzionale, poi un decreto della Presidenza del Consiglio. Comunque ci spiega tutto e lo salutiamo, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, vale a dire il Sindacato dei Magistrati, Rodolfo Sabelli. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Allora partirei proprio da lei perché è vero, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il congelamento che c'era stato di uno scatto, di un adeguamento automatico della magistratura, di fatto abbiamo letto sui giornali che c'è stato uno sblocco retroattivo di un aumento del 5% circa. Sì. Questa cosa fa un po' magari arrabbiare qualche italiano, presidente. Ma guardi, io ho letto nei giorni scorsi dei commenti non corretti. In realtà i magistrati oggi percepiscono in ritardo quegli stessi adeguamenti dei quali hanno già beneficiato le altre categorie del pubblico impiego nel triennio 2009, 2010, 2011. perché non è vero che gli stipendi non si sono mossi. In questo triennio, che parzialmente copre un periodo precedente il blocco degli stipendi che fu disposto con un decreto del 2010, gli stipendi sono aumentati. In questo triennio, parlo degli stipendi del settore del pubblico impiego, vi è stato un incremento medio intorno al 5%. Il sistema retributivo della magistratura prevede che lo stipendio dei magistrati sia adeguato in ritardo, cioè dopo 3 anni, nella stessa misura dell'incremento medio che è stato applicato agli stipendi del pubblico impiego. Però, mi scusi, Presidente, cioè io leggo qui l'articolo di Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, che è sempre molto ben informato. Si era cercato di estendere anche alla magistratura un blocco dei contratti che era stato fatto anche per il pubblico impiego nella manovra estiva del 2010, no? Però questo congelamento è stato giudicato incostituzionale da una sentenza della Corte Costituzionale. E perché che cosa è accaduto? Che proprio per questo ritardo, che è un meccanismo previsto dalla legge, lo stipendio dei magistrati è stato bloccato, mentre invece lo stipendio del settore pubblico nel triennio precedente ha visto un incremento nei 3 anni del 5%. Però nel triennio precedente, cioè il blocco del 2010 valeva per tutto il pubblico impiego, adesso però è stato sbloccato solo per i magistrati in base a questa sentenza. Ma perché i magistrati non avevano percepito quell'incremento medio che le altre categorie avevano del pubblico percepito impiego prima. Avevano già percepito, proprio perché l'adeguamento per i magistrati avviene in ritardo per un meccanismo previsto dalla legge. Quindi questo blocco aveva fatto sì che i magistrati non godessero di quell'aumento percentuale di cui le altre categorie del pubblico impiego avevano goduto prima. Quindi quando noi leggiamo blocco del 2010 per tutti, in realtà il blocco per i magistrati vale per è parametrato sull'aumento degli anni precedenti avuti negli anni precedenti. Questo che cosa vuol dire? Che se nel triennio 2012-2013-2014 gli stipendi nel settore del pubblico impiego non aumenteranno, fra 3 anni neanche lo stipendio dei magistrati aumenterà. Senta, Sabelli, diamo alcune cifre, perché lei lo sa, ma tra l'altro anche i giornalisti vengono identificati come una casta in Italia, anche se poi nel giornalismo c'è una marea di precariato, la gente pensa a chissà cosa, che siano gli stipendi, ormai questi tempi sono finiti. Gli stipendi dei magistrati che il Sole 24 Ore aveva pubblicato, ce lo dice quanto guadagna di base? Ci faccia capire un netto, sia la magistratura ordinaria che la magistratura contabile, che sono cose diverse. Guardi, allora, parliamo ora dei magistrati ordinari. Guardi, un magistrato ordinario all'inizio carriera ha uno stipendio che si aggira intorno ai 2.500 euro mensili. Si tratta di uno stipendio peraltro mediamente in linea con gli stipendi europei, credo che ci collochiamo intorno al 15° posto, quindi neanche ai primi posti della classifica, sono stipendi piuttosto livellati verso il basso. Quando e consideriamo che oggi chi accede alla magistratura sono persone in genere di 30-35 anni d'età. Quando si parla di stipendi da paperoni, stipendi molto elevati, in realtà si pensa agli stipendi del primo presidente della Corte di Cassazione, dei presidenti di sezione della Corte di Cassazione, cioè stipendi che vengono percepiti dopo 40 anni di carriera da una porzione veramente molto esigua dei magistrati. Gli stipendi medi sono in realtà molto molto più bassi. Ma quelli che vengono pubblicati sul Sole, che io vedo magistrato ordinario da 71.413 fino ad arrivare a un totale di retribuzione di 132.000 euro, 193 all'ordo. Parliamo di stipendi lordi, perché uno stipendio netto di un magistrato all'inizio della carriera si aggira intorno ai 30.000 ai 30.000 euro, però vanno fatte anche delle altre considerazioni, cioè si tratta anzitutto di stipendi onnicomprensivi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i magistrati non percepiscono nessuna altra indennità, non percepiscono straordinari, non percepiscono indennità per il lavoro notturno, il lavoro festivo. I magistrati sostengono degli oneri, perché dall'acquisto dei codici all'abbonamento delle riviste è tutto a carico. Cioè, diciamo 2.500 all'inizio carriera, si può arrivare, ci dica quanto si può arrivare a fine carriera, come ma netto, guardi, mensile? Parliamo di stipendi, di retribuzioni che sono percepite da una minoranza di persone. E vabbè, ce le dica, Presidente. Prego, non l'ho capito. No, ce ne dica, anche se sono guardi, pochi. Possiamo arrivare intorno ai 7.000 euro mensili. 7.000 mensili. Certo, 7.000 mensili. Che comunque... Poi c'è lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, che è un unicum, che francamente neanche le saprei dire, non lo conosco, sono molto, veramente molto lontano. 10.000, 12.000, non lo so. Non ho idea, non credo che arrivi francamente a 12.000, ma c'è cioè una persona in tutta la magistratura. Quello che si dice. Non quella cifra, Sabelli, rimanga ovviamente con noi, perché è chiaro. Chiaro che gli ascoltatori e molti italiani dicono: ma come è aumentato? Invito anche i dipendenti del pubblico impiego a telefonarci, anche se ci ha spiegato il meccanismo, no? Presidente Sabelli, cioè l'adeguamento per i magistrati avviene in ritardo rispetto all'adeguamento del resto del pubblico impiego. Quindi se c'è stato un blocco per tutti nel 2010 e lo sblocco per i magistrati è perché lo sblocco degli altri dipendenti pubblici era avvenuto nel triennio precedente. Dal punto di vista della politica invece vorrei fare un salto a questo. Dario Violi, intanto perché lei ha voluto, voi del Movimento 5 Stelle avete voluto rendere noto questo bollettino, primo cedolino, ci dica quant'è il netto esatto che le è arrivato in teoria in busta paga, poi voi restituite una parte. Ma guardi, il netto si tratta di 16.384 euro e 76 centesimi, mi pare. 16.000, me lo segno, è 384 euro. Un mese e mezzo però, in realtà. Sono un mese e mezzo, ecco, diciamo che si è voluto far polemica sul fatto che noi abbiamo pubblicato questa cosa, ma noi abbiamo pubblicato questa cosa dicendo chiaramente, se lei va sul mio blog lo può vedere, che si tratta addirittura, io ho messo di marzo-aprile, non ho messo neanche metà marzo, perché comunque per quanto ci riguarda è una cifra che sta fuori da ogni logica, indipendentemente che sia un mese e mezzo, che siano due mesi di stipendio. Ragazzi, 16.384 euro per il consigliere regionale, un mese e mezzo, mica male. Guardi, se posso permettermi, sì. Sono già anche stati parzialmente tagliati, nel senso che l'ufficio di presidenza ha già deciso di tagliare la parte che riguarda l'indennità chilometrica, che non c'è stata corrisposta, quindi questo non è tutto quello che avremmo dovuto prendere, che hanno preso i colleghi fino al mese scorso, ma è una parte già stata tagliata. Sì, viva Dio, poi ci sono state le polemiche, qualcosa magari le campagne anche stampa sono servite in questo, però mi risulta che a giugno o a breve verrà decurtata questa, che intanto quindi mensile quant'è, che calcoli possiamo fare? Mensile attorno ai 10.000 euro, adesso non so dirle come precisione. 10.000 netti, vedremo il prossimo cedolino. Verrà decurtata a breve? C'è un tavolo di lavoro che tra l'altro si ritroverà anche oggi, composto da tutti i partiti, da noi come Movimento 5 Stelle. Stiamo partecipando alla composizione di una proposta di legge regionale che, devo dirlo, deve recepire la legge Monti, quindi quella sulla spending review, la 174-2012, quindi siamo obbligati, non è che la politica si inventa un taglio. E stiamo partecipando al tavolo, vediamo la proposta che sarà messa oggi sul tavolo, noi intanto ne abbiamo già formulata una, condivisa con i nostri attivisti, e vediamo se si troverà un accordo su quella che è la nostra proposta. Cioè quanto potrebbe scendere la proposta che fate voi, qual è? La nostra proposta è quello che percepiamo noi attualmente, quindi 5.000 euro lordi più i rimborsi a piedi lista, quindi io sul mio blog ho pubblicato tutti gli scontrini e tutte le spese che ho sostenuto, e quelle vanno oltre i 5.000 euro. Cioè, lei è uno di quelli che dice spendo 3.000 euro, rendi conto 3.000 euro, non c'è più la questione si compra i cornetti al bar o... Sì, no, guardi, la questione dei cornetti al bar spesso non c'entrava con i rimborsi spese, che in questo caso sono forfettari, ma sono addirittura i costi di funzionamento dei gruppi, quindi sono altri soldi che il gruppo consigliare percepisce, non sono quelli relativi all'indennità dei consiglieri. Allora, facciamo così, la pubblicità, tra qualche minuto, 4 minuti, rientriamo con Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Dario Violi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia, a parlare di stipendi, anche le vostre telefonate all'800 24 00 24, se pensate che sia un'Italia fatta di caste, dove c'è qualcuno che guadagna di più, qualcuno che guadagna di meno. Ripartiremo anche con un servizio di ieri sera delle Iene, perché c'è una casta sicuramente sulla quale anche noi spesso abbiamo battuto il tasto: i dipendenti di Camera e Senato, persone che ricevono anche 15 mensilità. Io ancora mi sto arrovellando, non ho capito la 15ª mensilità in che mese la prendono, e le Iene ieri hanno scoperto che alcuni di questi sono pure assenteisti. 24 mattino. E allora siamo qua, le 8:37 minuti, siamo a parlare degli stipendi degli italiani che bloccati da tanti anni, ma non per tutti. Ieri le Iene I dipendenti di Camera e Senato hanno uno stipendio medio di 150.000 euro, una somma pari a circa 5 volte la paga media di un dipendente pubblico. Quasi il quadruplo rispetto allo stipendio di un dipendente del Parlamento inglese che si aggira sui 40.000 euro annui. Voi direte, vabbè, ma se faranno un mazzo così, forse... Vediamo arrivare una prima dipendente. Entra, veggia il tesserino e però riesce dal palazzo. E così fanno anche tanti altri dipendenti, che beggiano e se ne vanno via. Insomma, Filippo Roma, qui, la Iena, li ha beccati, che beggiano i dipendenti del Senato, 150.000 euro di media, 15 mensilità, e poi li hanno seguiti. Adesso Pietro Grasso, il presidente, ha detto grazie alle Iene, insisteremo, vedremo di eliminare queste frasi che si dicono, poi non si farà niente perché ci sono, credo, 16 sigle sindacali per trattare con i 300, quanti sono? 400 dipendenti del Senato. Comunque siamo con Rodolfo Sabelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, con Dario Violi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia. Vorrei sentire anche qualche ascoltatore. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Di che? Niente, io ho scritto per segnalare, io sono un ex ufficiale dell'Arma in congedo, sono sì, congedato da poco e lavoro nel privato, che da circa 2 anni ormai sono stati tagliati gli aumenti stipendiali per gli ufficiali dell'Arma e per tutti quelli che dopo un certo numero di anni di carriera fanno un piccolo beneficio di circa 200-300 euro mensili. Quindi i carabinieri hanno lo stipendio bloccato da... Ed è stato prorogato fino a tutto il 2014 questo blocco. E quindi dico, voglio dire, che considerazione le fa fare quando sente che invece ci sono categorie che guadagnano ben di più? Beh, ogni categoria giustamente ha la sua professionalità, però giustamente per quella di cui facevo parte mi pare abbastanza poco un stipendio di circa 2.200 euro mensili per un funzionario pubblico che ha responsabilità anche per circa 200 persone. Ed è in 2200 dopo quanti anni di servizio? Ma guardi, in realtà non c'è una progressione costante, si prende circa questo stipendio immediatamente dopo le scuole. Sì. E poi rimane più o meno, però sì, difficilmente cresce, questo vuol dire difficilmente molto cresce. Difficilmente. Va bene, grazie Alessandro. Andrea Trento da Stefano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io voglio dire questo, io faccio un sindacalista, sono dirigente sindacale in Trentino, al pubblico impiego, da 10 anni. Allora, innanzitutto prima è stato affermato che l'incremento medio negli ultimi triennio era del 5%, è stato del 3,5%, vorrei precisare. Ma a parte questo, io veramente ho a che fare tutti i giorni con persone che ringrazio sempre, che sono poco consapevoli che gli stipendi netti dei dipendenti in Italia sono mediamente il 30% inferiori a quelli europei. E ringrazio che la gente non ci manda a casa tutti, perché veramente avrebbe più ragioni. E siccome sono 20 anni che sento parlare di meritocrazia, di quant'altro, mi sono veramente fatto l'idea, anche con dispiacere, che è opportuno e indispensabile mettere un tetto massimo agli stipendi sia dei dirigenti pubblici, perché si sa come sono nominati, sì, perfettamente, sia di chi ha incarichi politici. Lei come lo metterebbe questo tetto? Dove lo fisserebbe? Va messo per legge, almeno finché non si fa un ricambio nella classe dirigente, perché non c'è un ricambio, non esiste ricambio. Perché io, qua da noi stanno facendo in Trentino una riorganizzazione che la invito a documentarsela, è allucinante. E come lei dice, un tetto agli stipendi pubblici. Sentiamo che ne pensa Rodolfo Sabelli. Tra l'altro Sabelli, Stefano da Trento, che fa il sindacalista, dice che l'aumento, lo sblocco dei dipendenti pubblici era del 3,5%, non del 4,25% che è la percentuale che avete avuto voi come adeguamento, invece, presidente Sabelli. Guardi, il tetto ai dipendenti pubblici, che ne pensa? Guardi, anzitutto la percentuale di incremento è stata determinata dall'Istat, non da noi. Per quanto riguarda il tetto, io credo questo, che ora per quanto quanto riguarda la magistratura, ma in generale anche per quanto riguarda le altre professioni. Se si vogliono reclutare i migliori per una certa categoria, ad una certa professione pubblica, occorre offrire delle retribuzioni che siano in linea con le altre possibili soluzioni di lavoro, il che non vuol dire che si debbano concedere degli stipendi esosi. E tuttavia per un magistrato bisogna considerare che le altre possibilità di sblocco lavorativo sono il notariato, le professioni legali. Consideriamo anche che oggi chi accede alla magistratura ordinaria sono persone che hanno già un'altra occupazione, molti vengono dalla Banca d'Italia, dalla dirigenza pubblica, quindi stabilire degli stipendi troppo bassi vorrebbe dire scoraggiare i migliori dall'accesso a questo tipo di professione. Poi le chiederò anche che ne pensa, insomma, il fatto che la Corte Costituzionale, d'altronde è la Corte Costituzionale che stabilisce sulla costituzionalità delle nostre leggi, composta anche da magistrati, che ha deciso una sentenza che ha sbloccato lo stipendio ai magistrati. Però, Savelli, che possiamo fare? Quello è. Non c'è un cortocircuito in questo. Se vuole le rispondo. La Corte Costituzionale ha fatto questo tipo di ragionamento, cioè intervenire sul meccanismo di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati è cosa delicata, perché questo meccanismo, che ripeto è collegato strettamente con il meccanismo di adeguamento dell'intero settore pubblico, è stabilito a garanzia dell'indipendenza della magistratura per evitare che i magistrati debbano periodicamente arrivare a fare delle trattative stipendiali con gli altri poteri dello Stato, il che ha dei profili di inopportunità con riguardo al principio di indipendenza. Dario Violi, che effetto le fa, lo so che lei è consigliere regionale della Lombardia, che effetto le fa sentire di questa casta che le Iene avrebbe scoperto, la casta delle caste, i dipendenti di Camera e Senato, 15 mensilità, mediamente lo stipendio di 150.000 euro? Ma guardi, la cosa non mi sorprende, nel senso che la nostra battaglia non è solo sui nostri stipendi, quello lì chiaramente è la prima cosa che vogliamo fare, lo facciamo direttamente su di noi, ma è anche in quel giro di stipendi di soprattutto dirigenti nel settore pubblico che percepiscono delle indennità, degli stipendi ben superiori alla media del settore privato. Io vengo da quell'ambiente e le cifre che girano, che ho sentito anche io ieri sera alle Iene, piuttosto che si vedono sui giornali, sono nettamente più alte da quello che viene privato. Quindi se è vero che abbassando troppo si rischia magari di perdere delle professionalità, ma qua a mio avviso stiamo parlando di stipendi che vanno ben oltre qualsiasi possibile. Esattamente. Sì, ma poi fanno anche gli assenteisti beggiano e vanno, no, va bene, avete avuto 15 mensilità e ancora non ho capito qual è il mese in cui ricevono la quindicesima mensilità, ma l'assenteismo, beggiare, andare, no, questo è francamente troppo. Il traffico, poi rientriamo all'ultima parte di 24 mattino, vorrei capire anche da Dario Violi che ne fate voi, perché voi del Movimento 5 Stelle dite noi teniamo solo una parte dello stipendio, ma il resto dello stipendio, siccome mi risulta non sia rinunciabile, che ne fate di quello? Eccoci, allora Dario Violi, cosa lei ha detto che tenete quanto? 5.000 euro lordi o netti? Lordi. Che quindi fa quanto? 3.000? Più o meno attorno ai 3.000 euro. 3.000 netti. E il resto dei circa 10.000, facciamo 10.000, sono 10.000 netti però, che quindi 11.000 netti mediamente. 11.000 netti. E la parte che resta che ne fate? La parte che resta abbiamo chiesto alla Giunta di predisporre una voce di bilancio in entrata dove è possibile fare dei versamenti liberali e che questi soldi poi siano dati, messi in un fondo a garanzia per le microimprese. E se vi dicono di no? Vedremo di organizzarci consultando i nostri attivisti e confrontandoci. Noi preferiremmo che fossero gestiti da Regione Lombardia, perché riteniamo che gestirli e donarli direttamente sarebbe anche una forma di gestione del consenso, quindi non lo riteniamo corretto ridarli all'ente e chiedere però che vengano gestiti in trasparenza. Se no tornereste alle vecchie accuse di voto di scambio, no? Do soldi a qualcuno e poi mi guadagno dei voti. Esattamente, se io voglio far beneficenza lo faccio col mio netto, lo faccio per i fatti miei, senza pubblicità. Con i soldi che ritengo troppi li ridò a chi me li ha dati e gli chiedo però di utilizzarli per le piccole e medie imprese. Sa che però c'è una polemica, almeno oggi racconta Repubblica, riguardo quello che succede a Roma, cioè anche lì i deputati si tengono una parte dell'indennità, però poi c'è la voce della diaria, cioè le spese, le trasferte, i deputati vengono da tutta Italia, eccetera. E lì si è scelto, pare, in base volontaria di chi li vuole li restituisce, chi non vuole non li restituisce, mi sembra di aver capito così. Può essere una polemica sulla quale poi vi inchiodano, diciamo, voi del Movimento 5 Stelle. Ma guardi, io credo che non sia mai capitato che i soldi siano stati ridati all'ente da dove provenivano, quindi già un ottimo risultato. Noi stiamo facendo tutto in modo trasparente, io parlo per quanto riguarda il Consiglio regionale, perché qua sono, so che i colleghi a Roma stanno discutendo della cosa e stanno ridando anche loro delle indennità, adesso non mi ricordo precisamente le cifre, ma sui loro siti potete vederlo, e quindi anche noi percepiamo la diaria, noi la utilizziamo per a rimborso piedi lista, quindi con spese documentate, ci prendiamo solo la parte che ci spetta. Io credo che facciano così anche i colleghi a Roma, però vedremo, stanno decidendo. Intanto sentirei Roberto dalla provincia di Caserta. Roberto, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Niente, vorrei spezzare una lancia, come dire, a favore dei magistrati. Io sono un avvocato, ho una conoscenza discreta di quello che possa essere il lavoro di un magistrato e quindi innanzitutto la delicatezza della funzione, che è quella più nobile che sia in assoluto, e questo già dovrebbe distinguerla da altre professioni. Poi perché tutte le professioni lavorano, però sono nobili. Sì, certo, no, però voglio dire, il magistrato effettivamente non interrompe mai il suo lavoro, nel senso che va a casa, istruisce le pratiche, diciamo non stacca mai. Sono pochi, sono veramente davvero troppo pochi, quindi hanno un ruolo sempre carico all'inverosimile. Insomma, lei quindi spezza una lancia per il magistrato, dice sicuramente sì, perché lavorano H24. Ma sicuramente sì, perché oltretutto io sono un avvocato stipendiato, perché sono un avvocato di una pubblica amministrazione, quindi voglio dire, grosso modo capita anche a me fare la stessa cosa. Va bene, quindi Roberto spezza una lancia per il presidente Sabelli e la categoria che rappresenta. Vorrei andare da Gaetano, da Latina. Buongiorno Gaetano. Buongiorno dottor Milan. Senta, io sono un generale di divisione dell'aeronautica della riserva, vale a dire in pensione. Sì. Il dottor Sabelli ha detto che i dipendenti del pubblico impiego hanno avuto degli incrementi di stipendio, ma la mia pensione, che fino al 2011 era agganciata, essendo io all'epoca nella era agganciata allo stipendio degli ufficiali in servizio, dal 2011 è rimasto bloccata. La mia pensione è rimasta bloccata. Ma dirò ancora di più, che in questi ultimi mesi ho avuto la lieta sorpresa di sapere che la mia pensione si è ridotta di 300 euro a causa dell'incremento delle addizionali comunali e provinciali. Se la deve prendere. I miei colleghi in servizio, se promossi, continuano a percepire lo stipendio del grado precedente. Insomma, questo lei cosa ci vuol dire? Che tutto da tenente colonnello. Ma è chiaro, Gaetano, mi scusi, lei ci vuol dire che è tutto bloccato, insomma, che non è vero. Ma guardi, la mia pensione è bloccata dal 2009 praticamente. Quindi sinceramente non lo so. Poi una curiosità, vorrei sapere dal dottor Sabelli se gli stipendi dei consiglieri di Cassazione sono agganciati a quelli dei parlamentari. Questo credo di sì. Presidente Sabelli, vuole rispondere a Gaetano da Latina, i consiglieri di Cassazione. Il contrario, forse. Il discorso è il contrario. È che i parlamentari guadagnano. L'indennità parlamentare che è agganciata al trattamento lordo, massimo anno lordo, dei magistrati con funzione di cioè non è che i magistrati guadagnano quanto i parlamentari, è che il parlamentare guadagna quanto guadagna. L'indennità, poi ci sono naturalmente le varie integrazioni. Ma a questo proposito, Presidente, essendoci un aumento e quindi un adeguamento di questo 5%, mi va mica incidere anche sull'aumento dell'indennità dei parlamentari in automatico? Guardi, francamente ora bisognerebbe vedere il sistema normativo che determina l'indennità parlamentare, perché c'è una vecchia legge del 65 che poi è stata successivamente modificata. Il sistema retributivo dei parlamentari però è complesso, perché all'indennità si aggiunge la diaria, sì, si aggiungono i rimborsi. Però se l'indennità per legge, come lei mi dice, è parametrata a quanto guadagna il massimo della magistratura, se aumenta, se questo adeguamento vale anche per il massimo della magistratura, varrà in automatico. Francamente non questo forse bisognerebbe chiederlo a qualcuno. Bisognerà fare un'altra trasmissione in materia di indennità parlamentare. Bisognerà fare un'altra trasmissione. Quello che l'unica cosa, se posso aggiungere, sì, una brevissima considerazione, è ovviamente bisogna vigilare sui privilegi e ovviamente combattere gli abusi. Ci sono stati dei tempi in cui le cariche pubbliche erano gratuite, ma erano tempi in cui alle cariche pubbliche accedevano solo i ricchi. Credo che non sia quello oggi un modello di riferimento. No, non vogliamo tornare a quel livello. Grazie. Allora io vi ringrazio, Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e Dario Violi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia. Violi, metterete il prossimo cedolino per capire esattamente quant'è al mese, non i 16.000 che ricordiamo è un mese e mezzo, per capire quanto è effettivamente lo stipendio mensile. Lo metterete? Ma guardi, sicuramente lo metteremo e continueremo a metterlo tutti i mesi per una questione di trasparenza. Bene. No, e questo... poi magari se vuole ci risentiremo dopo che sarà stata valata la legge regionale, se, e vediamo cosa si sarà ridotto. Per capire se si riuscirà a decurtare qualcosa. Grazie davvero con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro Carmelo Lauricella in regia. Vi do appuntamento a domani con questo piglio molto deciso. Vi ricordo che noi ci svegliamo alle 5 e siamo in onda dalle 6:30, e dunque debosciati di tutta Italia, state con noi. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.